Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Beh, oggi voglio proprio farvi sorridere. Sto per raccontarvi una storia divertente, curiosa, anche di grande umanità, ma che contiene una serie di metafore sul mondo musicale di oggi che ognuno di voi potrà, attribuire a questo o a quel cantante. Perché oggi raccontiamo la storia di una cantante, di una donna stonata, sicuramente non portata per il canto dal punto di vista tecnico, ma invece innamorata della musica. Una donna cantante irrecuperabile che però ha avuto un grande successo e ha conquistato una grande popolarità. È una storia diversa. La nostra protagonista non arriva da un talent show, e qui potete cominciare a sorridere. Non è il risultato di una operazione commerciale studiata a tavolino. Stiamo parlando di un'altra epoca e di un altro ambito. Siamo nei primi anni del Novecento e l'ambito ovviamente non è quello della musica pop o rock, ma è quello più serio ancora della musica lirica, dove la bravura era quasi oggettiva, e questo è ancora più strano. Stiamo parlando di tenori, di soprano, di bassi, di artisti che arrivavano sul palcoscenico dopo anni e anni di studio, che dovevano confrontarsi con Mozart o con Verdi. Stiamo parlando di un mondo che ha visto eccellere gente come la Callas, Caruso o più recentemente Placido Domingo, Carreras, Pavarotti. Insomma, la nostra protagonista è una soprano stonata, talmente poco dotata da essere passata alla storia come la cantante più stonata del mondo. E pensate che non c'era l'autotune, non c'erano tutti quegli aggeggi che oggi fanno sembrare intonato chiunque. Parleremo di Florence Foster Jenkins, una ereditiera statunitense, una mecenate, una protagonista del jet set americano negli anni 20, 30 e 40. Ascoltatela se pensate che io stia esagerando in questa registrazione degli anni 40. E non è una performance dal vivo, ma una sessione effettuata in sala di registrazione, quindi con un mix, con dei tentativi, insomma, il meglio che il tecnico sia riuscito a ottenere da lei. Il brano è impegnativo perché l'aria della regina della notte dal flauto magico di Mozart. Allora, cosa vi avevo detto? Non c'era l'autotune, la salvezza del 70% dei cantanti di oggi, e quindi questo è il risultato. La signora Florence Foster Jenkins, pur cantando in questa maniera, si è esibita per oltre 30 anni davanti alle personalità più in vista d'America, ha realizzato dischi, ha cantato nella prestigiosa Carnegie Hall, il tempio della musica newyorkese, è diventata una figura cult. E vedremo come è riuscita a fare tutto questo. Cercheremo anche di capire se fosse più ignara o più incurante del fatto di essere così ridicola. Narcissa Florence Foster nasce a Wilkes-Barre in Pennsylvania il 19 luglio del 1868. La famiglia è molto benestante. Il padre Charles Foster è un ricco avvocato e un possidente terriero. Tra l'altro Florence è l'unica erede, perché la sorellina minore muore in tenera età, quindi è pronta a ereditare un patrimonio. Lei nasce con la passione della musica, inizia a studiare il pianoforte, è portata, se così si può dire, a 7 anni comincia a esibirsi in pubblico con il nome d'arte di Little Miss Foster. Arriva a esibirsi alla Casa Bianca alla presenza dell'allora presidente degli Stati Uniti, Rutherford Hayes. A 17 anni termina il liceo, chiede al padre di poter continuare gli studi di musica in Europa. Il padre si rifiuta perché non vuole finanziare quella che lui ritiene una follia. Lei non ci pensa due volte, scappa di casa con Frank Thornton Jenkins, un medico di 16 anni più grande di lei, e lo sposa a Filadelfia nel 1885, a 17 anni. Il padre la disereda, e qui dovrebbero cominciare i guai. A lei non importa, però, anche se il padre, oltre a diseredarla, le taglia i viveri, e lei è convinta che il marito possa darle uno status che le consenta di coltivare la sua passione per la musica, e invece l'unica cosa che il marito le regala è la sifilide. lei è indignata perché sa bene, insomma, che è una malattia che non è che si contragga bevendo da un bicchiere, si contrae in un altro modo. Quindi, insomma, lui l'ha tradita, lei lo lascia, è sola e senza soldi, si mantiene dando lezioni di piano, però là si fili delle porte dei danni irreparabili alle articolazioni, e questo mette fine alle sue velleità di pianista, perché lei il piano tutto sommato lo sapeva anche suonare. Una in una situazione del genere si scoraggerebbe, ma Florence Foster Jenkins è una ragazza caparbia, ha una determinazione incrollabile. Se non può fare la pianista, bene, farà la cantante. Il falco e il gabbiano. Per sua fortuna Florence ha dalla sua parte la madre Mary Jane Hoagland, che è molto ricca e appena sente dei problemi della sua unica adorata figlia corre in suo aiuto, e lei confida alla madre il suo sogno segreto: vuole diventare cantante lirica. La madre le paga i migliori insegnanti di canto di Filadelfia. Nel 1900 le due donne si spostano a New York alla ricerca di insegnanti migliori, di musicisti disposti a dare lezioni a Florence, che non è esattamente una promessa del bel canto. E a New York Florence e la madre fanno in fretta a fare le conoscenze giuste, perché sono ricche, possono spendere, vivono in un hotel prestigioso, comprano vestiti di lusso, cenano nei migliori ristoranti, hanno subito amicizie influenti. Lei continua a prendere lezioni di canto e gli insegnanti, di fronte alla generosità della madre, non hanno il coraggio di dirle la verità, cioè che lei è stonata, non è portata, non andrà da nessuna parte. La incoraggiano facendole credere che ha delle qualità e che con l'esercizio può migliorare notevolmente, e lei è stonata ma ha anche la voce brutta. E intanto Florence fa quello che fanno le donne nell'alta società in quegli anni. Ce lo spiega bene la grande Meryl Streep, che da poco ha finito di girare il film Florence Foster Jenkins in uscita a Natale, che è la biografia della nostra protagonista. Meryl Streep che non è solo una grande attrice, è una grandissima cantante. Non è facile stonare apposta, lei ha dovuto impararlo, e fa una interessante analisi di quel periodo storico. Era un'epoca in cui le donne non possedevano del denaro proprio. O lo ereditavano, o lo sposavano, non lavoravano. Certo, non quelle della classe sociale di Florence. Allora, in quel tempo, le donne entravano a far parte dei club e così stabilivano la loro gerarchia nella società. Florence arrivò ad essere membro di 60 club a New York. Era molto generosa e caritatevole, dava contributi a tutte quelle organizzazioni. Giving to all sorts of mostly arts organizations. Vedete, oggi con tutti quei soldi lei avrebbe potuto, che so, comprarsi una radio, fare un pezzo e mandarlo in alta rotazione. Lei invece, siamo agli inizi del Novecento, deve diventare membro di una sessantina di club musicali, quelli dei tenori, quelli delle soprano, quelli degli amanti di Mozart, di Verdi, di Schubert. Elargisce contributi, aiuta nell'organizzazione dei concerti, partecipa a aste benefiche, insomma diventa un membro importante e un punto di riferimento del mondo musicale newyorkese. Di alcuni club arriva perfino a essere direttrice o presidentessa. 1909, un anno determinante nella sua vita, accadono due fatti fondamentali. Il primo è, direi, molto positivo per lei: il padre muore, le lascia in eredità una fortuna. Se prima era ricca grazie alla madre, ora è lei che in prima persona possiede terreni, immobili, gioielli, denaro liquido per più di $1,000,000. Siamo agli inizi del Novecento, è una cifra esorbitante. L'altro fatto determinante è che lei conosce a un tè organizzato in uno dei tanti club in cui lei è direttrice un uomo, è bellissimo, è affascinante, è un attore shakespeariano, si chiama St. Clair Bayfield, ha 7 anni meno di lei, è bello e ovviamente non ha un soldo. Lei ha 41 anni, non è tra l'altro una bellezza, un fisico pesante, ha sempre una parrucca castana ricciolina che non le dona, si veste in maniera molto eccentrica, con degli abiti che si cuce da solo, che si fa fare sui suoi disegni. Insomma, è una persona anche piuttosto ridicola, ma è molto, molto ricca. Bayfield passa sopra a tutte queste stranezze, tra cui quella di voler fare la cantante. Insomma, tra i due nasce una relazione che continuerà tutta la vita della donna. È una relazione amorosa, professionale. Bayfield diventa l'agente, diventa il manager di Florence Foster Jenkins. E grazie a St. Clair Bayfield, grazie a questo nuovo marito, Florence acquista uno status rispettabile in società, perché lui è vero, sarà sempre suo mantenuto. I due si sposeranno, anche se il matrimonio in realtà non è valido perché lei è sempre sposata con il dottor Jenkins. Però in quegli anni, in una società americana perbenista, bigotta, è una donna da sola vista male. Lei invece adesso ha al fianco un uomo bello, aitante, apparentemente innamorato, pronto a soddisfare ogni suo capriccio con i suoi soldi, di lei, perché lei intanto non ha abbandonato l'idea di fare la cantante, continua a studiare canto ai migliori insegnanti della città, che non possono certo donarle una bella voce e non riescono neanche a farla diventare molto intonata, però sono ben disposti da dei compensi molto lauti e quindi continuano a cementare quella incondizionata fiducia in sé che lei già possiede. Questo non è il film, è proprio lei che sta cantando, non so se mi spiego. È veramente scarsa, eh? Però è amata dai membri dei vari club di cui fa parte, ovviamente sempre per le sue elargizioni, per i rinfreschi, per le feste danzanti che lei organizza frequentissimamente, e così comincia a fare qualche piccola esibizione in pubblico, qualche aria che lei canta durante le serate nei suoi club di fronte alle amiche e ai mariti, e nessuno ha il coraggio di dirle che fa schifo, che canta male. Nessuno la vuole stroncare perché sente una passione immensa, genuina. E così lei si convince di essere brava, anche perché non si sente, perché le cure che ha dovuto seguire a causa della sifilide, cure che prevedevano in quei tempi l'impiego di grandi quantità di mercurio, le hanno lasciato un brutto strascico. Soffre di quella che ai tempi viene poeticamente chiamata la serenata degli angeli, in realtà si chiama acufene, un fastidiosissimo sibilo che lei sente costantemente nelle orecchie, quello che io sento alla fine del concerto dopo avere passato 2 ore e mezza con a fianco il Marshall di Luigi Schiavone. Però insomma è un sibilo che lei invece sente tutto il giorno, ed è un sibilo che influenza la sua intonazione. Il primo vero recital di Florence è del 1912, avviene in uno dei circoli musicali più prestigiosi di New York, ovviamente un circolo di cui lei è direttrice, uno spettacolo che lei si autofinanzia, spende una cifra esorbitante, si parla di quasi $200,000 di allora, organizzazione superba, cena fastosa, scenografie elaborate che le fanno da cornice, costumi, inviti stampati su lamine d'argento. Naturalmente partecipano tutti gli amici, tutte le amiche, tutti quelli che hanno degli interessi a chiudere un occhio e soprattutto a chiudere entrambe le orecchie sul suo modo di cantare. Insomma, in breve, Florence Foster Jenkins, grazie all'aiuto del suo devoto St. Clair Bayfield, dà vita a una consuetudine direi bizzarra, cioè in tutti i suoi circoli si organizzano con cadenza mensile, se non settimanale, delle sue esibizioni. Lei canta con una frequenza decisamente superiore a tutti i grandi cantanti di quel momento, che sono dotati di voce e di intonazione ovviamente infinitamente superiore alla sua, ma non hanno un portafogli così gonfio come il suo, e in pratica lei, invece di essere pagata per cantare, lei paga per cantare. Il falco e il gabbiano. Beh, oggi stiamo raccontando una storia paradossale, surreale, divertente, ma anche emblematica. Ci stiamo giocando sopra perché è una storia che ai giorni nostri si ripete sotto altre forme. Una cantante totalmente inadatta al canto e anche decisamente stonata, che invece fa la soprano Florence Foster Jenkins. È passata alla storia come la soprano più stonata del mondo, avrebbe dovuto scomparire nell'oblio tra i fischi e il pubblico ludibrio, invece è arrivata fino a noi con dischi, con registrazioni, con recensioni e ovviamente stroncature di uno storico recital tenuto alla prestigiosa Carnegie Hall di New York, alla presenza della creme della società dell'epoca, una donna ignara della propria ridicolaggine, ma animata sicuramente da una tenera, immensa, genuina passione per la musica. Dopo il suo debutto a New York nel 1912, in uno dei tanti circoli di cui lei è presidentessa, replica perché i suoi amici beneficiari che sono interessati alle sue generose elargizioni non hanno il coraggio e naturalmente non hanno l'interesse di rivelarle la verità, che è totalmente stonata, che le sue performance sono agghiaccianti, sono orribili, e invece le sue esibizioni sono un successo via l'altro. È bellissimo, c'è questa ipocrisia generale che fa sì che tutti dicano: beh, insomma, brava, brava. E anche qui, se siete maligni, potete pensare a chi volete. Lei in pratica è una mecenate della musica, finanzia i circoli musicali, i giovani talenti, sponsorizza anche se stesso ovviamente, e si impone senza sospettare la vera natura di una predisposizione d'animo così favorevole nei suoi confronti. Sentite quanto è sgraziata, proprio è sgraziata, non è solo stonata. Comunque nel 1917 lei supera se stessa, è il suo colpo d'ala, uno dei tanti della sua vita, e verso l'alto, verso il basso, sicuramente non in tonalità, decide di fondare un suo club privato intitolato a Giuseppe Verdi, che probabilmente sarebbe inorridito se l'avesse sentita cantare le sue arie. Insomma, fonda il Verdi Club, fondatrice, presidente, padrona di casa. Scopo del club è rafforzare l'amore, la conoscenza della grande opera in lingua inglese, quindi uno scopo nobile, e il club in pochi giorni arriva a 400 iscritti, e il membro onorario è il grande tenore Enrico Caruso, che suppongo non l'abbia mai sentita cantare. Ma in breve tempo ne entrano a far parte anche la Croce Rossa di New York, i Boy Scout, cioè tutti sono al seguito di Florence per cercare di suggerle del denaro. E così lei dà il via a una nuova consuetudine, crea i cosiddetti tableau vivant, le pitture viventi, rappresentazioni artistiche statiche che raffigurano scene di vario genere, in costume, pitture, sculture, scenografie, tutto molto costoso naturalmente, e ovviamente lei è la protagonista e indossa costumi eccentrici, piume, nastri colorati, pizzi, e foto che sono arrivate fino a noi, andatele a vedere su Wikipedia, perché non è sufficiente descriverle, bisogna vedere. Lei non è bellissima, è una donna robusta, e la vedrete fasciata in un abito di raso bianco aderente con le ali d'angelo, insomma uno spettacolo meraviglioso. In questi tempi ci sono copertine di dischi di donne molto brutte, ecco questa è ancora più brutta. Di queste scene ne realizza una alla settimana, la regia delle nevi, l'eroina americana avvolta nella bandiera. Ascoltate la descrizione che ne fa Alan King, un attore che frequenta il suo club e che frequenta anche la sua casa. Non era affatto bella e la sua età è sempre rimasta un mistero. Si vestiva come una pazza e indossava anelli con brillanti enormi a tutte le dita delle mani, perfino sui pollici. Il suo colore preferito era il rosa, il suo cocktail il Manhattan. Mangiava solo sandwich e cenava sempre al Metropolitan. La sua casa era un'incredibile accozzaglia di ori, piena di foto di lei stessa insieme a tutte le persone famose che conosceva. Era veramente stravagante. Pensate che faceva il bagno nell'insalata di patate. Faceva la collezione più strana di cui abbia mai sentito parlare. Collezionava sedie in cui erano morte delle persone. Ne aveva parecchie ed erano catalogate con delle targhette di metallo, sulle quali era inciso ad esempio Il generale tal dei tali è morto in questa poltrona, nella tal data, nel tal posto. E questa milionaria, eccentrica, che ama la musica, che in pratica paga la gente per starla a ascoltare, paga anche musicisti di grande valore. Per molti anni il pianista si chiama Cosme McMoon, che era un famoso compositore che nelle registrazioni si sente spesso aggiustare il tiro per cercare di compensare gli sbagli, gli errori di ritmo. Più avanti ci sarà un altro musicista dell'epoca, Edwin MacArthur, che diventerà il suo accompagnatore, perché lei naturalmente vuole gente abile, dei professionisti. Per esempio, quelli che organizzano le feste sono dei professionisti, i suoi tableau vivant sono considerati grandissimi, favolosi, solo se lei non cantasse. Nessuno se li perde. Nel 1930, per esempio, un giornale newyorkese riporta la notizia di un evento che fa letteralmente impazzire la città. Per Halloween, Flores, Foster, Jenkins e il marito Sinclair Bayfield daranno un sontuoso ballo al Club Verdi. L'invito in giallo e nero su lamina d'oro era straordinario e ogni piccolo dettaglio mostrava l'attenzione e la cura della presidentessa Florence Foster Jenkins. Molti ammiratori le avevano inviato prima del concerto bouquet di fiori stupendi e durante la serata, nel momento culminante del canto, un'ovazione incontenibile è stata accompagnata da lanci ripetuti di altri fiori meravigliosi sul palco. La performance della presidentessa è stata ripetuta per soddisfare le numerose richieste insistenti. Sì, perché il marito non solo organizza i concerti, sceglie il pubblico ovviamente tra gli amici della donna, però lui gestisce anche i giornalisti che dovranno poi scrivere le recensioni, esattamente come succede oggi. E vengono regolarmente invitati alle serate con donazioni alle proprie testate, i giornalisti si vedono recapitare a casa bellissimi regali e quindi la stampa è dalla sua parte. Guarda, a volte la vita com'è strana. Succede esattamente così anche oggi. Gli anni e l'esercizio non migliorano le sue doti canore, perché comunque lei è stonata, non arriva alle note alte. Il noto impresario teatrale Ira Sif, che si infiltra a un concerto, e scrive così di lei: è l'anti-Callas. La Jenkins è squisitamente pessima, ma talmente pessima che alla fine mi sono goduto una serata piacevole. Lei non segue la musica originale, ma va per conto suo, in maniera distorta e abominevole. Non c'è stata fine all'orrore. Mi hanno riferito che in sala c'era anche Cole Porter, che ha dovuto darsi il bastone su un piede per non ridere troppo forte. Ma questa dichiarazione è un caso isolato, è solo una voce che sfugge alle maglie della censura preventiva del marito. Lei intanto non si pone neanche il dubbio sulle sue qualità. Quando la madre muore le lascia anche il suo patrimonio, lei è ancora più ricca, e allora decide di dare un incremento ulteriore alla sua carriera di cantante. Lei vuole incidere dei dischi, vuole passare alla storia, e chiaramente si può fare tutto. Nel 41, quindi lei è arrivata a 73 anni, lei si autofinanzia, registra dei dischi, 578 giri con 9 brani, arie di Mozart, di Strauss, canzoni scritte da lei con McMoon, dischi che ovviamente regala ai suoi amici, che non saranno mai messi in vendita, ma proprio grazie a queste registrazioni. Una volta non esisteva lo stratagemma facciamo in modo che salgano le visualizzazioni così poi la gente abbocca e visualizza e viralizza. Allora lei i dischi li deve regalare, ma grazie a quei dischi noi oggi possiamo renderci conto di chi fosse Florence Foster Jenkins e di come cantasse realmente. Luigi Speciale, ti prego, abbassa. E qui in questo pezzo che lei ha scritto, Like a Bird, praticamente si autoqualifica come angioletto, un po' tipo Brava di Mina, sono tanto brava, no? Vi ricordate? Ecco, una roba del genere. Arriviamo al 25 ottobre del 44, è una data storica nella sua esistenza perché si sta per avverare il suo sogno, perché lei ha sempre desiderato cantare alla Carnegie Hall, il tempio della musica newyorkese. Tutti le hanno sconsigliato di esibirsi lì, ovviamente, perfino il marito non se l'è sentita di dire vai e spacca. anche perché non è che puoi acquistare 3.000 biglietti, è troppo anche per loro. Senza selezione, peraltro, non puoi controllare chi ascolterà il concerto, insomma il rischio è altissimo, ma lei insiste, è il suo colpo d'ala, è il suo sogno segreto da sempre, è il suo appuntamento col destino, e sarà proprio un terribile appuntamento col destino. Comunque, o adesso o mai più, i biglietti vanno esauriti settimane prima del concerto e almeno 2.000 persone restano a bocca asciutta, non potranno vedere la performance dell'anno, è quella che attendono tutti con ansia, perché lei è famosissima, ma sono veramente pochi quelli che l'hanno sentita cantare. Lei si sta avviando al suo terribile e grottesco appuntamento con il destino. Reclutati i migliori musicisti, sempre col suo pianista di fiducia, Cosme McMoon, al suo fianco, lei va sul palco e dà il via a una performance esilarante, ridicola, siamo al limite delle comiche da circo. Tra il pubblico siede gente prestigiosissima, c'è Cole Porter, c'è tutta la crema dell'intelligenza newyorkese, tutti lì a sentire lei. Quello che abbiamo vissuto è indescrivibile, eravamo del tutto impreparati. Lei non sembrava toccata minimamente dal fatto che la gente ridesse per tutto il concerto, e quando lei steccava, applaudivano forte per poter ridere con maggior veemenza. Alcuni furono accompagnati fuori perché ridevano troppo. E questa era la coreografa Margie Champion, presente a questo terribile evento. E le recensioni dei giornali sono terrificanti. Sentite cosa scrive un critico musicale del New York Post. Ehi, amanti della musica. Ieri sera ho sentito cantare Madame Florence Foster Jenkins, 76 anni. Una signora molto benestante della nostra città. Ha una grande voce, difatti può cantare tutto tranne le note. Lady Florence ha dato luogo ad una delle mascherate più assurde che New York abbia mai visto. Ha dato un recital alla Carnegie Hall riempiendo il palcoscenico di fiori come se si trattasse di una funzione funebre. C'erano 3.000 persone dotate di un acuto senso dello humor. $6.000 per avere il privilegio di poterla sentire squittire e starnazzare. Ho sentito mogli dire ai mariti: non ridere così forte, mettiti qualcosa in bocca. Eh sì, è uno spettacolo grottesco, la gente va a vederla per ridere di lei. E poi ci sono queste recensioni impietose e insomma le si apre un mondo che lei non aveva mai voluto guardare. Florence crolla, nessuno le aveva detto delle cose così terribili, gli amici l'avevano sempre applaudita, lei era convinta di cantare bene, cerca di azzardare una giustificazione, dice che c'era gente gelosa tra il pubblico, gelosa di lei, ma nemmeno lei ci crede. E dopo 4 giorni ha un infarto, muore il 26 novembre del 44, muore di crepacuore. E c'è un ultimo dato che merita di essere ricordato. Soltanto altre 2 star hanno avuto lo stesso numero di richieste di biglietti alla Carnegie Hall, lo stesso numero che ha avuto lei, Judy Garland e i Beatles. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, e poi ci sono storie assurde. Questa è veramente una storia incredibile, grottesca e a suo modo tenera, la storia di una miliardaria che è convinta di cantare bene. È una storia che mi ha intenerito, se penso invece agli escamotage che si usano oggi per imporre qualcuno all'attenzione del pubblico. E allora viva la voce sgraziata di Florence Foster Jenkins. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure scrivete al nostro sito, oppure venite sui miei social, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete mi trovate. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.